sono calabrese, ma dell'avvocato ricordo che è stato un grande personaggio che ha rappresentato Torino in tutto il mondo e quindi una persona degna e meritevole della nostra fiducia, di tutti noi altri torinesi. Oggi sono qua in ricordo del decennale della sua scomparsa e anche 10 anni fa ero qui in memoria del suo decesso. È stato un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio che ha praticamente fatto crescere l'Italia del dopoguerra e quindi tutta l'Italia gli deve molta gratitudine. Io sono qui per rendergli omaggio. Io vengo proprio per riconoscenza per questa persona. Anche io sono impegnato, l'ho conosciuto, come società, ho lavorato in Fiat tanti anni e di conseguenza l'avvocato è una leggenda a Piemonte, in Italia, nel mondo, sappiamo chi è stato. Ossia, la leggenda dell'avvocato penso che non abbia parole, il personaggio che è stato nella vita, quello che ha fatto per Torino e anche per l'italiano. Eccezionale, una parola sola, questa. Una grande persona, stato stupendo per Torino, perché ha fatto tante cose, che adesso invece si sta sfasciando tutto.